silenzio, finalmente cercherò quello che non ho trovato ancora intorno a me, negli universi lontani viaggerò, come se la mia vita fosse altrove, via da qui. Cerco uno spazio per potermi esprimere, io vorrei stare da solo per un po', negli universi lontani viaggerò, dove io possa capire ciò che non comprendo più. Sento il silenzio del cosmo intorno a me, come se fossi una stella che risplende in cielo, negli universi lontani viaggerò, come se la mia vita fosse stata sempre qui, la mia vita fosse stata sempre qui.